Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Buonasera e benvenuti a Rock Wave Live, io mi racconto con Gilles Facchinelli ai microfoni. Ancora musica questa sera e andiamo precisamente in Sardegna per dare il benvenuto ad Alex F. Ciao Alex, ci sei? Ciao, buongiorno a tutti. Oh, benissimo, ecco. Ciao Alex e intanto grazie di essere qui con noi a Radio Cooperativa. Oh, grazie a voi. Allora, andiamo a presentarti un pochino, Alex. Giovanissimo, hai 27 anni, esatto, di Gonnessa, esatto. Giusto? Lo dico bene, Gonnessa? Gonnesa. voi siete più precisi qui come nome e paese. Quindi esatto. Tu sei gonnesino, questo lo dico bene? Esatto, questo è perfetto, bravissimo. Raccontaci un po' di questo paese velocemente, Alex. Allora, è un paese che comunque vive d'estate, perché per il destino qua fa il boom, perché c'è la spiaggia, c'è un ristorante, molto più una zona turistica. Comunque tu adesso non vivi più là perché per esigenze artistiche ti sei trasferito a Roma, esatto, giusto? Esatto, giustissimo. Mi sono trasferito a Roma e ho iniziato a studiare lì chitarra, canto, fare qualche concorso, tra cui un concorso di Amadeo Minghi e ne parleremo dopo, non mi rubare tutto. Ah, ok, perfetto. Allora, perché? Diciamo perché sei qui con me oggi, perché tu dal 23 novembre in pratica hai mandato in onda in tutte le radio il tuo inedito Con le mani nel fango per l'etichetta genovese Riserva Sonora. Facciamo così, Alex, io direi di fare ascoltare subito la tua canzone e poi ti faremo parlare a raffica di questa tua canzone, ok? Va benissimo, perfetto, va bene. Allora ascoltiamoci Con le mani nel fango di Alex F. E io veglierò con le mani nel fango, scaverò nell'anima mia e lì cercherò. Ho nascosto il mio cuore, difendendolo dalle mie paure, dagli sguardi invadenti di anime scure. Prenderò un aereo a te, andremo tra le nuvole, di me. Guarderò nel sole che dentro il mare scenderà, fino a perdermi con lui. E rimuoverò i pensieri pesanti parlando con te, ridendo con te. Solo con te prenderò. Guarderemo il sole nel fango scaverò nell'anima mia e li troverò te. Radio Cooperativa. Alex, rieccoci in diretta. Per te si può dire che è stato veramente un fine anno con il botto, eh? Quindi sei qui per raccontarci la storia di un sogno, di un tuo sogno che si sta realizzando. Sì, sì, è stato un bel botto il Capodanno, perché tutta la gente mi ha supportato. Abbiamo superato in poco più di un mese le 20.000 visualizzazioni e quindi, cioè, mi fortifica questa cosa, vuol dire che la gente piace ascoltare le mie storie. Certo, perché ormai anche si va molto per quante visualizzazioni fa un video su YouTube. Appunto, diciamo che nel giro di poco più di un mese sei già arrivato a 20.000 visualizzazioni, quindi è un brano, esatto, che sicuramente piace. Esatto, sì, sì. Poi tra le visualizzazioni capisci quanto può piacere, oppure dai commenti, da... ho avuto molti bei riscontri, e quindi penso che il lavoro che abbiamo fatto, perché la mia squadra è veramente una buona squadra, diciamo che vale tanto. Tu hai iniziato con i karaoke, no? Come ha iniziato Elisa? Poi, sì, esatto. Poi ad un certo punto decidi che bisogna dare un po' una svolta e inizi, sì, a partecipare ai talent, come dicevi prima, no? Esatto, iniziamo a partecipare ai talent. Dopo per i tentativi ho trovato un altro talent che era nuovo, che si chiama The Coach, e da lì ho conosciuto Gianni Testa, che mi ha convinto subito a entrare in questo percorso, perché comunque sia mi ha spiegato le cose, io le prendo seriamente non le fai, quindi ho preferito prendere, certo, seriamente iniziare. Diciamo anche chi è Gianni Testa, perché magari qualcuno non lo conosce, noi magari che siamo un pochino al di dentro già come nome lo conosciamo, ma chi è Gianni Testa? Gianni Testa, oltre ad essere un produttore, essere un songwriter, è una persona magnifica che non dimenticherò mai nel corso della mia vita, cioè mi ha aiutato in tutto, devo tanto io a Gianni, tanto tanto. Beh, dopo Gianni Testa, però, da lì, appunto, tramite Gianni inizi un po' a muovere i primi passi, però ad, esatto, un certo punto arriva un altro big della musica al tuo fianco, Vittorio, sì, Descalzi. Raccontaci un po'. Vittorio Descalzi, che è lo storico fondatore di New Trolls, ricordiamone. Perché non lo sapesse, ecco. E comunque, sì, sempre tramite Gianni sono riuscito a conoscere Vittorio, ho fatto sentire qualcosa di mio. E sono riuscito a farlo in vacanza in Sardegna. Così che un giorno avevo deciso di scrivere una canzone, andato un po' di spiaggia, ed è nata fuori questa. Certo. Abbiamo parlato un po' di me, di cosa volevamo creare, e il pezzo è uscito fuori, man mano, comunque, recuperando l'idea. Certo, perché ecco, diciamo che l'hai accennato, in pratica il tuo paese è anche il... rappresenta anche la tua creatività, perché questa canzone è nata proprio lì in riva al mare, sì, con, esatto, con Gianni e Vittorio, no? Esatto, sì, sì. Senti Alex, è tutto questo successo all'improvviso che ti ha dato fino adesso? Fino adesso mi ha dato un sorriso, forse un sorriso che non mi ha avuto, perché sai, quando una cosa ci speri non ci arrivi mai, poi quando ci arrivi rimani un po' spiazzato, quindi l'unica cosa che ti viene da fare è sorridere, certo, e ringraziare un po' tutti. Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Senti, raccontaci esattamente di cosa parla questo brano, Alex. Questo brano parla tutto e per tutto di me, che lascio la mia terra, lascio qualcosa che comunque a cui amo, a cui tengo alle spalle, per andare a cercare qualcos'altro che mi possa cambiare la vita, cioè mi possa dare un sogno, certo, che è quello della musica. Quindi proprio ti rappresenta, diciamo, no? Perché questo, sì, che, sì, tu stai, sì, cercando. Sì, rappresenta tantissimo questa canzone, parla proprio di me. Che io vi consiglio di andare a vedere, eh? Basta digitare Alex F, e già è sufficiente per YouTube, vi viene fuori il video. Ricordatevi anche Con le mani nel fango. Esatto. Visto quello che tu mi stai raccontando, cosa rappresenta per te la musica? È una sorta di amore, gioia e odio, e poi dipende da come lo si canta. La musica per me è un po' tutto, certo. Nella tua propria necessità di ascoltare, di cantare. Sto male, se non capisco non sono sto male. Voglio leggere una cosa che hai detto te e una cosa che ha detto Vittorio Descalzi, no? Che le metto molto, molto vicino. Tu hai detto, quando canto entro in un altro mondo che è tutto mio e spero con il cuore di poterci far entrare anche il pubblico che mi ascolta. Di contro, Vittorio Descalzi, leggevo un po' qualcosa su di lui, ha detto: il motivo che mi spinge a scrivere un nuovo disco è semplicemente perché lo sento. Scrivere è il motivo per cui io vivo. Io devo scrivere canzoni. Mi sembra di essere nato per questo. La musica mi spinge a vivere sempre di più. Vi trovo molto vicini su questo, no, Alex? Sì, sì, molto simile, più poetica quella di Vittorio. Sì, più poetica e più diretta alla tua, però il pensiero, forse probabilmente pensiero per quello che fine. Tu mi dicevi appunto che vi siete trovati, probabilmente è su questo che io ho trovato un po' di sintonia tra voi due, no? Il fatto proprio di vivere veramente la musica. Esatto. Rockwave con Alberto Prisco, tutti i mercoledì dalle ore 19 alle 20:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Allora, ritornando alla tua canzone, io ho dato un'occhiata, lo faccio sempre naturalmente occupandomi di musica emergente, ho visto che hai scalato fino al primo posto della classifica degli artisti emergenti e guardate che non è da poco, perché gli artisti emergenti già fanno fatica di suo per tanti motivi, però ritrovarsi anche in testa alla classifica, Alex, una soddisfazione enorme, no? Sì, soddisfazione allucinante, cioè, nemmeno non me l'aspettavo, ci sono rimasto male, come ho visto la classifica ho detto wow, che è successo? Una bella botta. Guarda, io ancora non avevo visto la classifica, ho ascoltato il tuo brano e subito ho detto: questa è una bella canzone, punto. Poi magari studiando un attimino, andando a vedere un po', mi ritrovo che sei anche primo in classifica. Ho detto: beh, almeno un po' di musica ci capisco. grazie tanto. Allora Alex, credo che visto le grandi motivazioni che hai, le qualità, i professionisti un po' che ti stanno giustamente attorno, credo che ci sarà anche qualche sorpresa nel prossimo futuro, no? Sì, sì, sto già lavorando a un album, sono già dei lavori in corso e qualcosa di bello uscirà fuori di nuovo. Quando ci sarà questa sorpresa, questo qualcosa di nuovo? Guarda, penso che data precisa non so ancora, però penso verso aprile qualcosa uscirà fuori. Sempre su queste sonorità, sempre oppure cambierai qualcosa, Alex? No, faccio un po' un pezzo estivo questa volta. Cambiamo un po'. A me piace variare i generi, non sto sempre su un genere, però proviamo un po' di tutto e vediamo quale funziona. Quindi aprile magari sì. Allora ci risentiremo, aprile, maggio, quello che sarà quello il periodo. Ok. Oltre a Gianni Testa e Vittorio Descalzi ci sono altre persone che vorresti ringraziare per questo inizio, Alex, che magari non ne abbiamo parlato. Persone che suonano con te, oppure qualche altra persona in particolare che ti è stato vicino e che magari non è presente sul campo, sì, esatto. Guarda, la persona principale che vorrei ringraziare, oltre a Gianni e Vittorio, che non è presente sul campo, è mia madre, perché stando qui a Sardegna non vede ciò che faccio e quindi è sempre lei che mi ha spronato per la musica e l'unica persona che vorrei ringraziare è proprio lei. Come si chiama la mamma? Sabrina. Sabrina? Esatto, Sabrina. Allora, chissà che sia in ascolto, magari la salutiamo, eh. Ciao Sabrina, e grazie di averci regalato Alex F. Allora, grazie. Alex, siamo al termine della trasmissione. Io, dopo che ci siamo fatti i saluti, sicuramente rimanderò in onda il tuo brano. Sai che lo manderemo per un po' di tempo anche in rotazione qui a Radio Cooperativa, quindi sicuramente andrà in onda per più di qualche puntata. Io volevo dirti un'ultima cosa, che cioè sei un esempio, perché prima abbiamo parlato dei talent, no? Però non sei mai passato dai talent televisivi, almeno da quello che mi risulta. Dico bene, Alex? Oh, in teoria sì, perché The Coach è nato in onda su Seven Gold. Sì. Poi non so, non sono riuscito a seguirlo per viaggi. Piace, io lavori. Però sono contento così, cioè... Certo. Però io volevo dire questo, Alex, dimostra comunque che la passione, lo studio, il credere nelle proprie qualità e soprattutto di essere al posto giusto, al momento giusto, perché tu ti sei fatto trovare lì, possa comunque essere una via verso progetti importanti, senza proprio necessariamente passare ai grandi talent televisivi. Magari anche qualcosa in meno, però se c'è questo, ma soprattutto essere lì, come è stato nel caso tuo, che dici? Esatto, la penso come te, perché tanto anche avere un talento televisivo ti vedono, però no, se non vali non esci. E invece il contrario, se vali puoi fare qualsiasi cosa, per provare a battere ferro, e prima o poi devi fare per forza uscire, se non... Certo. Anche, devi cambiare la testa. Sì, lo sappiamo che poi anche le persone giuste ci vogliono, per chi ti aiuta, per il produttore, sì, per le sonorità, esatto. un po' tutto, no? Però esatto. Bisogna appunto crederci, continuare e avere la speranza che in quel momento ci sia qualche persona esatto. Che ti ascolta, come è stato nel caso tuo, e ti prende e ti dice vieni qui un secondo che ti devo parlare, mettiamo esatto. A posto due cose e vedrai che qualcosa di positivo facciamo. Esatto, ok. La gente crede in te. Allora, Alex, diamo anche dei riferimenti web dove possono seguirti. Va bene. Allora, su Facebook c'è la pagina ufficiale che si chiama Alex _ Official, invece su Instagram alexf.xge. Bene. E soprattutto andate in YouTube e andate a vedere e ascoltare il video e vi rendete conto di cosa abbiamo parlato oggi, delle grandi qualità di Alex F. Alex, io ti ringrazio, ti saluto. Grazie a te. Sei stato gentilissimo, tutta Radio Cooperativa ti ringrazia di questo. Ti auguriamo tantissime belle cose, ancora grandi successi, però come abbiamo detto ci risentiamo al momento giusto, quando sarà pronto il tuo EP o CD, vedremo di cosa si tratta, ok? Va benissimo. Allora riascoltiamoci. Grazie. Con le mani nel fango di Alex F. Io veglierò con le mani nel fango, scaverò nell'anima mia e lì cercherò. Ho nascosto il mio cuore difendendolo dalle mie paure, dagli sguardi invadenti di anime scure. Prenderò una andremo tra le nuvole, scoprirò qualcosa di me, guarderò nel sole che dentro il mare scenderà, fino a perdermi con lui e rimuoverò i pensieri pesanti parlando con te, ridendo con te, solo con te. Prenderò una aereo, andremo tra le nuvole e scoprirai qualcosa di te, di te, di te. Guarderai nel sole scenderà, fino a perderti con lui. e scopriremo qualcosa di noi, di noi, di noi. Guarderemo il sole che dentro il mare scenderà, fino a perderci con lui. Ed io velerò con le mani nel fango, scaverò nell'anima mia e li troverò. Yeah.